1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Signori, alle 7:19 minuti la 198esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata, insieme alla nona settimana decisiva per la riforma elettorale. Avanti che ci siamo, è tornata la politica chiacchierata, la politica quella che io non sopporto, la politica quella che sopportano molto i politici sulle prime pagine dei quotidiani. Andiamo a sfogliarli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. In questo lunedì 13 febbraio i titoli, intanto l'apertura del Sole 24 Ore è la trattativa da 8 miliardi sui premi agli statali. Le parti variabili pesano in media 2.300 euro a busta paga. Oggi il confronto tra governo e sindacati per la riforma delle regole sul pubblico impiego, dunque notizia che riguarda milioni di italiani. Anche il Messaggero apre su questo: statali, premi decisi dal pubblico, i dipendenti degli uffici saranno valutati dagli utenti. Incentivi legati al gradimento, oggi il vertice con i sindacati. E poi appunto la politica, per il Corriere della Sera: sfida nel PD su leader e voto. Renzi: basta Caminetti e correnti, ripartiamo. E Prodi dice: elezioni nel 2018. Anche la Stampa mette in guardia l'Unione Europea: Italia a rischio se va al voto. L'Europa avverte: nessuna dilazione sulla manovra. Il Fatto Quotidiano apre sulla vicenda di Roma, perché c'è una lunga lettera dell'assessore Berdini, ancora in carica, assessore all'urbanistica. Ecco la mia verità, fango contro di me per avere mano libera sulla speculazione, parla l'assessore all'urbanistica, lo fa con una lunga lettera. Il Giornale invece: voto più lontano, Renzi, Berlusconi, via alla partita a scacchi. E sono però all'apertura di Repubblica, perché da qui voglio iniziare a approfondire i giornali. Su Repubblica c'è una lunga lettera del Papa. Si firma, come in questi casi quando scrive Repubblica e quando scrive i giornali, l'ha fatto qualche volta Francesco, e parla di pedofilia nella Chiesa, chiedendo perdono. Come può un prete causare tanto male? Questa è la domanda che pone e si pone il Papa. Chiedo perdono per i preti pedofili, un segno del diavolo, saremo severissimi. Pagina 2 di Repubblica, ecco la lettera di Francesco. Per chi è stato vittima di un pedofilo è difficile raccontare quel che ha subito, descrivere i traumi che ancora persistono a distanza di anni. Per questo la testimonianza di Daniel Pitté è necessaria, preziosa e coraggiosa. Ho conosciuto Daniel in Vaticano nel 2015, in occasione dell'anno intitolato Amare e dare tutto. Non potevo immaginare che quest'uomo entusiasta, appassionato di Cristo, fosse stato vittima di abusi da parte di un prete. Eppure questo è ciò che mi ha raccontato e la sua sofferenza mi ha molto colpito. Ho visto ancora una volta i danni spaventosi causati dagli abusi sessuali e il lungo e doloroso cammino che attende le vittime. Come può un prete al servizio di Cristo e della sua Chiesa arrivare a causare tanto male? Chiede il Papa. Come può aver consacrato la sua vita per condurre i bambini a Dio e finire invece per divorarli in quello che ho chiamato un sacrificio diabolico che distrugge sia la vittima sia la vita della Chiesa? Alcune vittime sono arrivate fino al suicidio. Questi morti pesano sul mio cuore, sulla mia coscienza, su quella di tutta la Chiesa. Alle loro famiglie porgo i miei sentimenti di amore e dolore e umilmente chiedo perdono. E poi racconta, insomma, ancora della scelta di incontrare anche l'aguzzino di Daniel Pitté, 44 anni dopo, di guardare negli occhi l'uomo che l'ha ferito nel profondo dell'anima. E gli ha teso la mano. Il bambino ferito è oggi un uomo in piedi, fragile ma in piedi. E c'è anche un'intervista a Daniel Pitté, che quando faceva il chierichetto, poi quando è diventato prete e poi invece è uscito dalla Chiesa, ma racconta, intervistato da Caterina Pasolini: ho svelato a Francesco i miei 4 anni di inferno e di abusi da parte di un sacerdote, lui ha pianto insieme a me. era un bambino fragile e timido, quel prete che avrebbe dovuto aiutarmi invece ne ha approfittato. E è sicuramente intensa e ritorna anche sulla tematica che abbiamo affrontato la scorsa settimana, una tematica sicuramente molto delicata ma anche da affrontare, questa lettera del Papa pubblicata da Repubblica oggi a pagina 2. Voglio invece saltare sul Corriere della Sera, dove Giuseppe Guastella intervista Piercamillo Davigo, oggi a capo dell'Associazione Nazionale Magistrati, dunque il sindacato dei magistrati, colui che ha fatto parte del pool Mani Pulite, di cui si è celebrato il 25ennale in questi giorni. Giuseppe Guastella fa un'intervista a Davigo e il titolo è già tutto un programma. A 25 anni da Mani Pulite l'Italia è ancora più corrotta. Così dice Davigo, il codice penale è uno spaventapasseri, in cella ormai vanno solo gli sciocchi. È drammatico quanto poco sia cambiata la situazione, dice Davigo, quanto sulla corruzione peggiori la deriva dell'Italia nel panorama internazionale, a livelli diversi, e siamo un paese che sta morendo, c'è sfiducia, la gente non va più a votare, espatria. Bisognerebbe cominciare con una rivoluzione culturale dalla scuola. Lei, Davigo, sostiene che per la corruzione ci vorrebbe un doppio binario come per la mafia. Sì, bisognerebbe introdurre alcune delle norme che valgono per i mafiosi, ad esempio un sistema premiale forte e serio e le operazioni sotto copertura. Ma il pool Mani Pulite, sono 25 anni, ha fatto errori? Secondo me no, risponde Davigo. Ha fatto quel che poteva. Se non ci avessero cambiato le leggi a partita in corso, saremmo andati avanti. Molte leggi possono avere su il nome dell'imputato. Per esempio, la legge Severino non contrasta la corruzione, ma è stata gabellata per una legge che la contrasta. Ma Monti, il premier di allora, non era sospettato di essere vicino ai corrotti. Quella legge l'ha fatta il Parlamento, risponde Davigo. Ricordo che il ministro della giustizia rispose alle obiezioni. Era il massimo che si potesse fare in quel momento con le Camere. E tra l'altro Davigo ha un duro giudizio, come ne ha per molti, anche per i politici. Lei ha un giudizio molto negativo sui politici. Ce ne sono anche per bene. Notate il anche per bene di Davigo. Ma i meccanismi talvolta favoriscono il malaffare. E ancora, si può cacciare uno che è innocente o tenerlo se è colpevole. Sono due valutazioni diverse. Una è politica, l'altra è di giustizia. Molte volte non c'è bisogno di aspettare le sentenze per far scattare le responsabilità politiche. Forse i partiti dovrebbero darsi codici di comportamento. A volte basterebbe anche il buon senso. Se mi mandano in udienza con un collega che si è saputo che ruba, io non vado, perché chi ci vede pensa che siamo uguali, mentre io non rubo. Ma scusi, così si rischia di finire nel moralismo, dice Giuseppe Guastella che lo intervista. E questa è un po' l'accusa che viene fatta a Davigo, che poi parla anche del carcere. In carcere dipende dai reati, dal tipo degli imputati. Ormai in carcere ci va chi è sciocco da farsi arrestare in flagranza o gli appartenenti alla criminalità organizzata, gli altri in media ci vanno di meno. Il codice penale è uno spaventapasseri, da lontano fa paura, ma da vicino invece no. Questo è Piercamillo Davigo, intervistato dal Corriere della Sera, da Giuseppe Guastella, a pagina 9. A proposito, ricordate la vicenda del venditore di merendine a scuola a Moncalieri? C'è Peter Pescapè che ride. Se fossi nei panni di questo ragazzino non rideresti più. Ricordate che è stato sospeso dalla scuola, nonostante abbia ottenuto tra l'altro una borsa di studio per lo spirito imprenditoriale dalla Fondazione Luigi Einaudi di Roma. È stato sospeso dalla scuola, ha preso 6 in condotta e ora arriva inequivocabile il maglio dello Stato sotto forma, boom, dei vigili urbani di Moncalieri. Multa per violazione delle regole sul commercio a 5.000 euro. Lui dovrà pagare 5.000 euro, cioè circa 400 euro in più di quanto guadagnato in 2 anni di commercio. E dunque anche la tua attività imprenditoriale, caro giovane, ancorché però illegale, cioè nel senso che ha violato delle regole, bam! Il maglio dello Stato è arrivato. 5.000 euro di multa da pagare, avevi guadagnato 4.400 euro. Multa 5.000, eccola qui. Il secolo XIX ne parla. Super multa allo studente che rivendeva le merendine. 5.000 euro per violazione delle normative sul commercio. Nuovo colpo di scena a Moncalieri. Lo trovate a pagina 9. Ma questo invece è l'articolo che mi fa pensare della giornata. L'articolo da Mani sul Volanti. Avevo detto che non ne avrei più parlato di questi collettivi di Bologna. Ho detto è venerdì e non ne voglio parlare. Adesso è lunedì, invece lunedì ne voglio parlare. Perché lo fa il Corriere della Sera. Sto parlando dei collettivi che a Bologna, all'università, si sono lamentati occupandola per il fatto che il rettore ha messo i tornelli alla biblioteca dell'Università di Bologna. E chissà perché ha messo i tornelli. Secondo voi perché ha messo i tornelli? Oggi ve lo spiega la bibliotecaria dell'Università di Bologna, 22enne, bibliotecaria minacciata per avere denunciato che cosa? Droga, violenze, sesso, siringhe, tutto ciò nell'Ateneo di Bologna. Sentite Claudio Delfrate che racconta la testimonianza della tirocinante, che racconta cosa succede all'Università di Bologna quando alle 5 va via tutto il personale e la biblioteca rimane aperta fino a mezzanotte. Succede anche questo. Un giorno un tizio si masturba davanti a una ragazza all'interno della biblioteca come se niente fosse. Lei scappa fuori in lacrime, mentre dentro scoppiava un pandemonio. Un'altra volta ho avvertito una ragazza che la stavano derubando. Sono stata inseguita e minacciata di botte. Storie di tutti i giorni negli spazi della biblioteca della Facoltà di Lettere a Bologna, raccontate da Emilia Garuti, 22 anni, che per aver reso pubblico quello che in tanti sapevano ma tacevano, è diventata bersaglio di dileggio, velate minacce. Sulla sua pagina Facebook vengono depositate frasi e giudizi poco rassicuranti. E lei dice: siringhe ovunque, i panca bestia che entrano e fanno i loro comodi. Luoghi di spaccio per drogarsi, i servizi chiusi per giorni, borseggi e furti all'ordine del giorno, materiali della biblioteca danneggiati, perfino i libri. Questo succede all'Università di Bologna e il rettore giustamente ha voluto mettere i tornelli. Controlliamo chi entra e spaccia droga e usa siringhe all'interno dell'Università di Bologna. O no, no, no, no, secondo quei collettivi lì, questa gentaglia qui, no, no. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Mila, il conduttore così morbido che si taglia con un grissino. E va bene, allora mi scrive un ascoltatore, sono Silvia da Bologna, un'ascoltatrice. Ringrazio, tutto vero. Mi dice, vabbè, è sulla questione dell'università e del degrado. Va bene, ma andiamo avanti così, visto che Davigo dice che ci vogliono le regole, le regole, le regole. Cominciamo a farle rispettare ovunque, per carità, anche evidentemente allo studente che ha venduto merendine e non poteva farlo. Belle 5.000 euro di multa. E allora, la politica. La politica è una politica legata a che cosa? Alla direzione del Partito Democratico di oggi. La domanda che tutti si pongono sui giornali da giorni è: Renzi oggi si dimetterà alla direzione del Partito Democratico, si dimetterà da segretario del PD? I rumors ultimi dicono che in realtà non lo farà, forse oggi. In ogni caso, i giornali campano da giorni su questa notizia ed è l'apertura per molti quotidiani. Leggo da pagina 2 del Corriere della Sera: il giorno della resa dei conti nel PD, Renzi, ora diamo la scelta al popolo. Oggi è in qualche modo il giorno e il momento della verità. racconta Marco Galluzzo. Dalla direzione del PD arriveranno indicazioni sulla strada del primo partito di maggioranza, sulle intenzioni del suo segretario, sulle ipotesi di congresso e voto anticipato, anche se in molti si dicono contrari a un'accelerazione. Primo Romano Prodi, che ha ribadito si deve votare nel 2018. Gli oppositori interni non sembrano concilianti, racconta il Corriere. Michele Emiliano, che aspira a succedergli, per lui l'ex premier è una rovina per l'immagine del partito. La direzione è stata trasformata in una kermesse. Renzi aveva annunciato ai suoi che oggi si sarebbe dimesso, ma la decisione potrebbe slittare ai prossimi giorni o all'Assemblea nazionale. E dunque quella decisione di dire ci dimettiamo in realtà forse viene rilanciata di qualche giorno. Quando si andrà a votare, quando si deve votare, è tutto una rissa, resa dei conti, chiamatela come volete, discussione all'interno del Partito Democratico. Secondo La Stampa, c'è uno dei retroscena più interessanti a firma Francesca Schianchi, Mattarella in qualche modo vuole salvare Caprecavoli, nel senso che non vuole dare totalmente ragione a Renzi sul andare a votare a giugno, ma non vuole neanche trascinare fino al 2018 e dunque democristianamente sceglie una via di mezzo. Voto a ottobre, la strada del Colle che può convincere Renzi. Questo La Stampa. Fino a un paio di settimane fa, con chiunque parlasse, il segretario del PD Renzi era categorico: o si vota a giugno o si finisce a febbraio 2018. Impossibile a suo modo una chiamata alle urne in autunno. C'è la legge di bilancio e poi non bisogna fare scattare i vitalizi dei parlamentari, ha ripetuto spesso ai suoi. Ma negli ultimi giorni nella sua testa ronzano le considerazioni che gli ha fatto più volte Mattarella. È vero che non è un tabù andare a votare a giugno, ma appuntamenti internazionali e la necessità di armonizzare le leggi elettorali di Camera e Senato rendono difficile quel traguardo. Lo stesso Presidente della Repubblica, d'altra parte, sa bene che arrivare al 2018 sarebbe chiedere molto, forse troppo, a una legislatura virtualmente terminata. Per questo lo scenario più ragionevole porta al voto tra la fine di settembre e i primi di ottobre. Tutti scenari così, sui giornali, trovate le pagine 3, 4 così, guardate la pagina 7 di Repubblica. Renzi e la roadmap fino a maggio, il congresso e le elezioni sono scollegati. Vedo il rischio prima Repubblica. In tutto questo le cose più concrete e vicine sono: che succederà con la manovra correttiva? Ci saranno le accise su benzina e tabacco? Padoan sembra convincersi che non è la scelta più giusta. Allora ieri Repubblica diceva metterà una tassa, una tantum su tutto il gioco d'azzardo legalizzato. Oggi sui giornali si racconta, la stessa Repubblica che aveva lanciato questa notizia dice che in realtà Padoan è pronto a rinunciare a nuove tasse, dunque niente. Pagina 7 di Repubblica, Rosaria Amato: non è detto che la nuova manovra da 3,4 miliardi di euro chiesta dalla Commissione europea debba passare dall'aumento delle accise. Al Ministero dell'Economia la parola d'ordine è evitare battaglie di principio. Oggi Padoan parteciperà alla direzione del PD, cui è stato invitato dal segretario ormai ex premier Renzi, e anche l'ipotesi di una stretta fiscale sulle sale giochi è tra quelle che potrebbero essere considerate. Ma ci saranno le accise? Non ci saranno le accise? Ci sarà la tassa sui giochi che oggi il giorno rilancia, evidentemente spinta da quello che scriveva ieri Repubblica, ma Repubblica già oggi dice che in realtà forse è smentita anche questa ipotesi. Insomma, è tutto una situazione in estrema evoluzione. Come in evoluzione è la vicenda di Roma. L'assessore Berdini, mio personale appello, inutile ovviamente come tante delle cose che dico, al quarto giorno: dimettiti Berdini, professor Berdini, dimettiti. Per la stima che ho sempre portato nei tuoi confronti da urbanista, tutte le battaglie che hai fatto. No, invece no, ma ormai siamo, credo, alla fine della sua avventura politica come assessore a Roma, perché è uscito quest'audio in cui diceva al giornalista: insomma, scrivi che sono amanti. Insomma, è un altro audio compromettente. Ma Paolo Berdini si difende in una lunghissima lettera al Fatto Quotidiano, pubblicata a pagina 2, In questa lettera dal titolo "Con Virginia abbiamo sempre difeso la legalità, continuiamo". Ma come continuiamo, Berlini? Vabbè. Comunque, caro direttore, inizia così la lettera, e in questa lunga lettera fa 6, 7 punti, 8, 9, 10 punti. I primi 6 sono un riepilogo di tutto quello che Berdini ha fatto fino a questo momento. Ma si arriva al punto 7, quello decisivo. Veniamo, e leggo dalla lettera di Berdini, all'inaudito attacco alla mia persona causato dal progetto dello stadio della Roma, ovvero la più imponente speculazione immobiliare del momento in Europa, nonché la più grande variante urbanistica ad hoc mai approvata nella capitale. Progetto autorizzato nel 2014 con riconoscimento di interesse pubblico per alcune opere di urbanizzazione che, lo abbiamo dimostrato coi fatti, servono solo a chi vuol portare a casa una speculazione di 1 milione di metri cubi di cemento. È un regalo da 1,5 miliardi di euro. Ebbene, da quando abbiamo iniziato a lavorare per riportare il progetto nelle regole del piano regolatore, è iniziata una criminale macchina del fango. La definisce così, quella ovviamente da lui subita. Non nascondo che in diversi momenti ho provato solitudine, dice Berdini, e poi racconta dell'episodio, una sapiente regia delle uscite. Un quotidiano pubblica prima una conversazione, poi una registrazione audio, infine un altro audio, tutto riferito a fatti risalenti non al giorno prima ma al 3 febbraio. Devo pensare che sia un caso? Perché tenerla 4 giorni nel cassetto? E poi racconta quel venerdì, dopo 4 ore di teso confronto sull'emergenza abitativa, un ragazzo mi si presenta nella sala delle conferenze come militante 5 Stelle. E parliamo a lungo di alcune questioni romane. Solo dopo all'esterno cado nella trappola con una registrazione illegale. È evidente che vogliono farmi fuori. Il vero punto è la colata di cemento che si vuole imporre a tutti i costi a una città già martoriata. Ecco, Berdini dunque dice così: mi stanno facendo fuori con una sapiente regia. A proposito di tutto ciò, Mauro Meazza, buongiorno. Cioè, no, nel senso, buongiorno. No, nessuno vuole farti fuori con una sapiente regia. Era La regia, spero, di Peter Bescapè, almeno sì, così sarà. Sì, sicuramente sapiente. Ok, va bene. Allora, chiedo veni agli ascoltatori. Purtroppo la voce non è ai suoi massimi, ma essendo oggi il giorno dell'indecasillabo, vado a leggere gli endecasillabi. Il poeta dolente, ti ringrazio per questa definizione, mi piace di più di quale sapiente regista, devo dire, la apprezzo meglio. Si avvia la settimana decisiva non per l'abolizione delle province, ma per il contratto cui da tempo ambiva quello statal che la riforma avvince. Intendo la Madia, come ben vedi, nei numeri che soffrono agli sguardi che in pagine 2 e 3 han trovato sedi, ed ora c'è da trovare 8 miliardi. Vorrei però che molta tua attenzione fosse per lo fascicolo più degno, l'esperto che oggi è da collezione commesse di risposte dal convegno, che Italia tutta vide il 2 febbraio, al cui ricordo ancora ammutolisco. Ci andò il commercialista e lo notaio, ed oggi giova ancora il telefisco. Restar vorrei nei 24 versi, perciò non posso darvi lo dettaglio dei molti temi che non andran persi, se tosto andrete dallo giornalaio. Fatelo voi, che avete tempo e spazio, prima che il sole cali sull'Atlantico. Allora noi tutti guarderemo al Lazio, con tanti auguri a Lino, e forza traffico! Alessandro Milan, come la lesci e la rassegna stampa, non la lesci nessuno. E mo non si facendo wap, Alessandro. Va bene, va buono. Allora, cari ascoltatori, devo leggere qualche notizia di cronaca qua e là perché mi hanno colpito tante cose. Intanto questo sindaco, che si chiama Raffaele Scarinzi, fa l'avvocato, ha 53 anni, è sindaco del Partito Democratico a Vitulano, in provincia di Benevento. Hanno detto: caro sindaco, ti stiamo per mandare dei migranti. Ah sì? Degli immigrati? E lui chiude la strada per il centro di accoglienza con uno sversamento di terra. Cioè proprio, ma guardate sul Messaggero, c'è la foto, io l'ho messa sul mio profilo Twitter, Alino Milan, un vero muro di almeno un metro e mezzo di terra, di modo che non possano passare i mezzi. Ci sono troppi immigrati, sindaco PD chiude la strada, e rilascia anche un'intervista a Repubblica, la solita questione, non siamo razzisti, ma siamo troppi. Ma quale muro? Ma sarà stati al massimo 30 centimetri di terreno, dopo un'ora già non c'erano più, siamo una città accogliente. Qui i migranti sono trattati a 5 stelle. Esordisce così la sua intervista il sindaco con Repubblica. E perché allora ha voluto chiudere la strada, sindaco? Vitulano ha 3.000 abitanti, ospitiamo 30 rifugiati. C'è già un mediatore culturale, interprete, tutto ciò previsto dalla legge. Poi l'altro giorno arriva un pullman con altre 34 persone in una struttura che ne può ospitare solo 12. Però anche i suoi concittadini protestano. È normale, così diventano troppi, la loro presenza preoccupa la comunità. E allora non mi hanno ascoltato, 34 persone in una struttura abilitata per 12, e io ho chiuso la strada. Ma con quale motivazione? Non è idonea a reggere il traffico ulteriore determinato dalla presenza di forze dell'ordine, operatori, cittadini e migranti. Ma che senso ha bloccare l'accesso con cumuli di terra? Era un segnale, un modo per dire che l'ordinanza andava rispettata. E vabbè, il sindaco che poi la strada l'ha sbloccata, però il concetto è chiaro. Sindaci che in prima linea poi devono fronteggiare questa emergenza che lo Stato chiaramente non sa fronteggiare in maniera organizzata, e si trovano poi di fronte a primi cittadini che rispondono così, basta con i migranti, il sindaco del PD alza un muro di terra, questo è il titolo per esempio del giornale. C'è anche da segnalare una pagina di Maurizio Ferrera sul Jobs Act, politica economica, pagina 11 del Corriere, un'analisi di una delle poche riforme strutturali degli ultimi 25 anni che, scrive Ferrera, è nel mirino delle critiche. Scrive però il Corriere, il Jobs Act merita invece una riflessione, una discussione seria, anche se valutarlo non è facile. Si è posto due obiettivi: ridurre rigidità e dualismi, offrendo più opportunità di occupazione stabile, al tempo stesso maggiore flessibilità alle imprese, e inoltre superare la polarizzazione tra garantiti e non garantiti. Cosa si può dire degli effetti concreti, scrive Ferrera? Le valutazioni più affidabili segnalano che il Jobs Act ha inciso positivamente sull'occupazione stabile. Dopo la sua introduzione vi è stato un significativo aumento dei contratti a tempo indeterminato, sia rispetto al passato, sia rispetto ad altri paesi come Spagna o Francia. I critici sostengono che si sia trattato di un incremento drogato dalla decontribuzione, ma trascurano due aspetti. Tutti i paesi dell'Unione Europea hanno investito grosse somme in sussidi alle nuove assunzioni. Inoltre all'estero gli oneri sociali sono strutturalmente più bassi. Certo, l'aspetto più problematico del Jobs Act riguarda le politiche attive. L'attuazione di questa parte della riforma è in grave ritardo. Qui scontiamo debolezze davvero storiche che riguardano in generale l'efficienza e la mentalità della nostra pubblica amministrazione, nonché la frammentazione regionale. Ma il governo avrebbe potuto fare di più, visto che i servizi per l'impiego sono l'architrave della flexicurity. Su questo aspetto le critiche colgono nel segno. Insomma, un'analisi di Maurizio Ferrera, luci e ombre, con tanto di dati che vengono snocciolati a pagina 11 del Corriere della Sera. Vi segnalo invece una pagina del Fatto Quotidiano, futuro e presente. A me ha un po' colpito, perché obiettivamente vedere gli anziani passeggiare con il badante robot è un po' colpisce. Aiuto, il mio miglior amico e amante ora è un robot. È una storia che Paolo Di Maglio racconta sul Fatto Quotidiano, parte da Peccioli, 5.000 anime in provincia di Pisa, dove i robot badanti sono di casa, utilissimi per disabili o anziani, rispondono ai comandi vocali, fanno la spesa, ricordano le medicine da prendere. Ecco, Maurizio Ferraboli, 74 anni, apprezza le virtù di Doro, Coro e Oro, i tre robot che funziona una staffetta. Il primo si muove in casa, il secondo nel condominio, il terzo per le strade. Se servono medicine, Oro le ritira in farmacia, le consegna a Coro all'ingresso del palazzo, che le passa ad Oro sull'uscio di casa, che le porge all'anziano sul divano. I robot badanti. Qualcuno dice: per alcuni vanno bene anche per il sesso. Fare il sesso con un robot, che sembra un cassonetto più che un... Vabbè. Aiuto, il mio miglior amico e amante ora un robot. Certo, inquieta un po', perché si può interrogare sul fatto che gli anziani siano abbandonati dalla comunità, a volte dagli stessi figli, quando li hanno. E si rifugiano nei robot. Per carità, importanti, sempre più importanti, ma un po' leggere questa cosa fa male. Comunque è una pagina sul Fatto Quotidiano, sul futuro e anche il ruolo dei robot per aiutare gli anziani. Allora, c'è spazio ancora per qualcos'altro per quel che riguarda la cronaca. Vi segnalo due pagine di intervista, lo faccio chiaramente con la rassegna stampa ad personam per Elisabetta Fusconi, che è appassionata di questo argomento e di poco altro. Olindo in cella dice: io e Rosa Bazzi siamo innocenti. È un'intervista di Gabriele Moroni a Olindo, ve lo ricordate? Olindo da Erba. Rilascia un'intervista al Giorno e dice: sono innocente, confido nella revisione del processo. Olindo e Rosa Bazzi. Questo sul Giorno, due pagine. Va bene, non siamo alla carta costa, siamo ancora a leggere una pagina sui giornali. Per esempio questa, due pagine per la verità, ve le segnalo. Francesco Semprini racconta sulla stampa in maniera molto dettagliata, con una bella inchiesta, la Libia. In Libia, tra i guardiani del mare, tra i guardiacoste libici, pochi mezzi, ma proviamo a fermare i migranti. È un viaggio di Francesco Semprini nella base di Abu Sitta, nota più per essere diventata luogo simbolo della svolta politica libica, il punto di approdo di Fayez al-Sarraj, da dove si tenta di contrastare i migranti che partono per l'Italia e per l'Europa più che altro. Praticamente, ha detto Minniti, il 100% dei migranti partono da qui, quelli che arrivano in Europa quest'anno, e quindi un viaggio in Libia per capire come si tenta di fermare questi migranti che partono. Siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua. Siamo su Libero, dove continua la saga della patata bollente, Sanremo bollente. C'è una pagina dedicata a Iva Zanicchi che dice: io patata felice, mio marito mi chiama così, patata, che faccio? Ma chi se ne frega!